L'evoluzione della scienza, dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta. Di Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi. Benvenute e benvenuti a Darwin. Oggi parte una nuova avventura, una nuova trasmissione dedicata alla scienza e all'innovazione, qui su Radio 24. Abbiamo già prodotto 3 puntate speciali in podcast durante il mese di giugno che trovate sul sito www.radio24.it. E abbiamo deciso di chiamarla Darwin, l'evoluzione della scienza, proprio perché l'evoluzione riveste un ruolo fondamentale su tutto ciò che ci circonda e anche su di noi. Charles Darwin era la costante ricerca della conoscenza, per questo abbiamo scelto lui. Oggi partiamo parlando di innovazione spinta, nuove frontiere dei robot. Vi raccontiamo cosa sono i robot bioispirati. E con noi c'è Barbara Mazzolai, che è coordinatrice del centro di microbiorobotica dell'ITI, l'Istituto Italiano di Tecnologia, a Pontedera, Pisa. Benvenuta Mazzolai. Grazie, un saluto a tutti. Lei si occupa di soft robot bioispirati e ci spiega che cosa significa. Sono letteralmente robot molli che si ispirano alla biologia, quindi alle piante o agli animali? Sì, esattamente. Sono robot che prendono ispirazione appunto dalle capacità degli esseri viventi, che possono essere il modo in cui si muovono, percepiscono l'ambiente, comunicano, che noi trasformiamo, diciamo, in regole artificiali per realizzare dei robot che sono più adatti a muoversi in ambienti naturali, chiamiamoli così. Lei insieme al suo team avete realizzato i primi robot al mondo ispirati alle piante. Forse qualcuno avrà sentito parlare del robot plantoide. Ecco, partiamo da questo caso specifico per capire cosa sviluppate. Sì, siamo stati i primi a proporre le piante, devo dire non con poca difficoltà, perché le piante vengono spesso percepite come organismi immobili, non in grado di percepire l'ambiente, e noi sappiamo che invece le macchine, appunto i robot, devono assolutamente compiere delle azioni nell'ambiente, no? Siamo partiti dalle capacità delle piante di muoversi attraverso la crescita prevalentemente, quindi per aggiunta di nuovo materiale, che da un punto di vista artificiale significa inserire nella parte apicale delle specie di stampanti tridimensionali miniaturizzate, no? Che quindi depositano materiale strato dopo strato, e mentre crescono le piante percepiscono l'ambiente, no? Quindi per esempio se c'è un ostacolo, oppure seguono la luce nella parte apicale, nelle radici, seguono gradienti di umidità oppure sostanze chimiche, anche loro evitano gli ostacoli, prendono delle decisioni, potremmo dire così, no? Sulla base del bisogno della pianta. Allora, tutte queste caratteristiche, comprese i materiali, sono state tradotte da me e dal mio gruppo in un robot che serve proprio per il monitoraggio del suolo. Ecco, questo era Plantoide, poi appunto, come diceva, vi siete ispirati e avete sviluppato un ulteriore progetto, GrowBot, se non sbaglio si chiama, per riprodurre dei robot che assomigliano a delle piante rampicanti. Tutto questo studio di robot è finalizzato poi a quale tipo di applicazione? Ma allora, io sono partita personalmente perché ho studiato anche biofisica, quindi per me è importante capire per esempio l'impatto di inquinanti sull'ambiente, no? Studiare l'ecosistema, e quindi per me i robot sempre di più avranno un ruolo chiave anche nel capire meglio proprio l'ecosistema, no? Cioè l'interazione anche tra i vari organismi, e soprattutto servire per monitoraggio ambientale, no? Per darci un'idea proprio anche della qualità dell'ambiente nel quale viviamo, ma tutto ciò che poi richiede esplorazione, quindi ad esempio esplorazione su altri pianeti, oppure archeologia, perché significa muoversi in anfratti, no? Alla ricerca magari di reperti, quindi le applicazioni sono molteplici. Ovviamente dipende molto anche da quanto siamo bravi ad imitare queste stupende caratteristiche delle piante, perché veramente le applicazioni addirittura potrebbero essere anche nel mondo della medicina. In conclusione volevo guardare ancora avanti, perché quando parliamo appunto di robot pensiamo a robot costruiti appunto con chip, metallo, materiali plastici e così via. Invece adesso si sta andando verso una direzione in cui si stanno utilizzando anche dei materiali biologici, i cosiddetti bioibridi. Ci spiega che cosa sono? Sì, sono appunto dei sistemi che hanno una parte artificiale, magari una parte naturale, possono essere dei tessuti, possono essere anche parti di cellule, ad esempio degli enzimi, no? Quindi prendiamo dalla natura delle componenti vive che come tali devono essere mantenute per dare più funzionalità ai robot in questi casi, per esempio. Il problema di questi bioibridi è poi interfacciarsi, no? Con la parte biologica, capire anche e saper leggere i segnali che vengono dalla parte biologica. Quindi ci sono altre sfide da aprire, ma ovviamente è un mondo assolutamente molto in crescita, diciamo dal punto di vista della ricerca, e in parte è già così, perché se vogliamo anche le protesi possono essere considerate dei bioibridi, dove noi, il resto del nostro corpo, la parte bio e la parte artificiale, magari è una mano, no? Un'altra parte del nostro corpo. Quindi se vogliamo, anche quelle sono forme di bioibrido. Va bene, allora buonissima ricerca per il futuro, c'è ancora tantissimo lavoro da fare e noi siamo qui per raccontarlo. Grazie Mazzolai. Grazie Mazzolai. Grazie. Grande fascino questo tema, sono contento che la prima puntata l'abbiamo fatta su questo. Siamo partiti col botto, ecco, però finisce qui, noi ci sentiamo domani, sempre a quest'ora, 20:50 su Radio 24. Ciao Federico, ciao a tutti. Ciao Chiara, un saluto a tutte e a tutti. Da Ravenna, in collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.